Blu Radio. Sono le 22 e 44 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Bene, nell'orario l'avete già sentito, quindi sapete già che siamo un po' in ritardo. Questa sera c'è un periodo di tempo che è servito per preparare le cose qua in studio, dove ci sarà un'esibizione dal vivo ancora una volta qui su Blu Radio Veneto, la musica live, che è quella più coinvolgente, quella che ci piace di più. Avremo con noi Ray Tarantino, ai microfoni Stefano Dainese e Maurizio Cazzavara. Buonasera a tutti. In regia Michele Tosò, il mitico Michele. Esatto. Allora, Ray Tarantino adesso si sta preparando fuori qua dallo studio, ma è tutto, diciamo, dal punto di vista strumentale è tutto pronto per la sua esibizione. È un cantautore che ha una vita divisa tra l'Italia e la Gran Bretagna, e infatti parla italiano, appunto, essendo nato in Italia. Lo parla perfettamente, cosa che ci permetterà di andare via più spediti nella trasmissione, visto che non dovrò fare la traduzione. Quindi diamo il benvenuto a Ray, che è entrato qua nel nostro studio. È un grande piacere averti con noi. Oltre a suonarci delle canzoni, ci parlerai un po' di te, ma noi volevamo aprire la trasmissione con un brano dal tuo album che si intitola Recusant. È giusta la pronuncia? Perché... Sì, direi di sì, che... sì, Recusant. Recusant, perché sì. È una parola che non avevo mai sentito. Recusant. Vabbè, poi magari ci dici cosa vuol dire. E il brano Five O'Clock in the Morning, che anche una volta si diceva il singolo, giusto? Adesso sì. Esiste il singolo, no? Esiste ancora in un'industria un po' vecchia, direi, però no, cioè, sì, appunto, dico singolo materialmente voleva dire che c'era un dischetto piccolo, un 45 giri, sì, che tu potevi toccare. È singolo perché è quello che si manda nelle radio e si prova a promuovere con dei video, così, dei passaggi promozionali, però secondo me la promozione è altrove, non è nei singoli e nelle performance. Dopo ce ne parlerai di questo. Allora ci ascoltiamo questo 5 o'clock in the morning, lui è Ray Tarantino, e poi lo avremo dal vivo qui nei nostri studi. Rock Wave, l'onda del rock. Lost in a land of meager skies and betting on the best of my anarchy. Walk by the wall, if you're a dreamer, then I'll call to share your sweet insanity. The king of the penis, Jesus on a Dutch day dress. He's lost the game, counting every grain of dust under the rain. He's crying, watch him do it again. Feel like we're going now. 5 o'clock in the morning. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Allora, mentre andava la canzone abbiamo scoperto cosa vuol dire recusant, ma dopo magari ve lo spiegheremo. Non mi stupisce che sia una parola che non ho mai sentito prima, è decisamente un po' inusuale, ecco. Ma visto che abbiamo ascoltato questa canzone, che si intitola 5 o'clock in the morning, cioè le 5 del mattino, uno magari leggendo solo il titolo pensa che sia una canzone che parla, che so, di uno che esce dalla discoteca, sì, o insomma le 5 del mattino. Di quello parla. Sì, ecco, perché allora Ray adesso ci racconterà come è nata questa canzone e anche il perché del titolo, che è quasi, sì, quasi tragica. Sì, tragica, quasi tragica, cioè per un attimo poteva essere tragica. Che ti è andata bene, diciamo. In pratica è diciamo che è un po' la canzone manifesto del mio personalissimo movimento, mio, veramente personale, perché, come vi stavo dicendo, facevo altre cose prima di fare musicista a tempo pieno. Cosa che ancora non è credibile per molta gente, cioè, molta gente stenta a crederti, no? Quando dici che fai musicista, dici cosa fai musicista, sì, ma poi cosa fai per vivere? Devi sempre dire il musicista, sì, ma però cosa fai? E 3-4 volte devi rispondere musicista. Ma questo in Italia, però, Ray. In Italia, assolutamente. Solamente in Italia. Sì. All'estero è il contrario. C'è un avvocato che suona la chitarra mezz'ora al giorno, ma gli piace di più. Vedi. L'avvocato gli chiede cosa fai e lui dice il musicista, nonostante sia un famoso avvocato. Perfetto. Esattamente l'opposto, però invece qua c'è questa cosa contro. Comunque, niente, praticamente io facevo altre cose prima, perché assecondavo dei sensi di colpa nei confronti degli studi magari che avevo fatto, no? Di una carriera che la gente si aspettava che io facessi, cose di questo genere qua. Quindi, insomma, un lavoro, poi un altro lavoro, poi un altro lavoro, e guadagnavo anche bei soldi. Erano tutti molto felici per me, ma io ero l'unico poi alla fine che non era contento di questa roba qua. Una sera stavo andando da... ero qua in Italia, stavo andando da Milano a Roma in macchina, con questa macchina pazzesca da egocentrico e velocissima, con 7 milioni di optional, compreso questo coso che tu schiacci il bottone e ti tiene a quella velocità lì. Si chiama Cruise Control anche in italiano. Esatto, Cruise Control. E quindi... niente, dopo tipo 5 ore di viaggio ho messo questo cruise control a 160 km all'ora. Vabbè, tanto tempo fa non possono più darti la multa. Esatto, tanto la patente me l'hanno tolta. Direttamente. Esatto. Okay. Quindi non ho problemi, infatti viaggio sempre solo in treno, e la cosa mi piace anche molto, perché... mi piace molto perché questa cosa di fare dei tour a impatto zero è meravigliosa, perché no? Comunque, tornando a 5 o'clock in the morning, niente, mi sono addormentato, come può purtroppo succedere, e sono andato a sbattere in pieno contro un furgone. Per fortuna non si è fatto male a nessuno, però insomma sono andato a sbattere a 160 all'ora. Sono uscito dalla macchina alle 5 della mattina, mi sono seduto sul guardrail, mi sono acceso una sigaretta e ho detto basta, da questo momento faccio musicista e basta. In treno? Non accetto. In treno, in treno. Faccio musicista in treno, non accetto, no. Tra l'altro ho preso delle multe anche in treno. Anche in treno ho preso. Io sono inseguito dalle multe. Comunque, niente, quindi è una canzone così, è una canzone che ho cercato poi di unire questo messaggio, che forse è troppo personale, però anche perché poi il testo è pieno di metafore, cose magari anche incomprensibili, però cioè c'è tipo il re degli addomesticati che porta Gesù a bere una roba, però pagano alla romana, capito? Ci sono tutte queste metafore così, quindi magari la gente non capisce niente, cioè non si capisce perché sono robe più mie che... Sì, ho sentito che Dylan è il tuo musicista preferito. Sì, assolutamente. Per cui, ecco, queste cose mi pare che siano molto un po' nelle sue, sulla sua scia, ecco. Però insomma, poi magari ognuno si trova un suo percorso all'interno di queste piccole immagini magari uno crea. Comunque la cosa che volevo fare era unire appunto questo messaggio magari un pochino più profondo con una musica più orecchiabile, con la speranza che è quello che poi vedo che succede ai concerti, che la gente canticchia questa canzone insieme a me e quindi magari inconsapevolmente canticchia una propria necessità di libertà, di liberazione anche. Quindi mi piaceva questa roba qua, cioè dare alla gente la possibilità inconsapevolmente comunque di cantare un proprio percorso di liberazione. C'è un bel testo con una magari musica accattivante. Una musica, sì, una musica proprio leggerina. Leggerina, con un ritornello da orecchiabile, sfigatina pop, così, questa è orrenda. Diciamo che speriamo che anche gli altri si liberino, ma magari evitando la parte del furgone. No, assolutamente, quella evitatela. Però no, una cosa che ci tengo a dire di questa canzone è che c'è un bellissimo video, dato che era il singolo, come dicevamo prima, perché è stato individuato come singolo, chissà cosa vuol dire. Però insomma è stato fatto un video su questa canzone a New York. È stato fatto un video a New York. Sì, l'ho visto. Che a me piace molto perché l'abbiamo scritto in aereo mentre andavamo a New York con il regista. Nel senso che siamo partiti, io ho chiamato questo Marco Bellone, si chiama, bravissimo regista. E gli ho detto, voglio fare un video. E gli ho detto, va bene, ci sto perché il pezzo mi piace. Hai un'idea? Io ho detto, no. Gli ho detto, tu hai un'idea? Lui ha detto, no. Però facciamolo a New York, va bene. Allora siamo partiti su questa American Airlines 767. Mentre passavamo sopra l'oceano, abbiamo scritto la storia di questo video. Siamo arrivati e dovevamo cercare un senza tetto. Perché la storia poi alla fine è di qualcuno che riscatta la propria possibilità di avere una vita nuova, no? E abbiamo trovato un senza tetto, Roger Dennis, che poi è proprio recita se stesso nel video. È stata un'unica persona pagata di tutti gli attori del video. Questo senza tetto che è stato pagato tipo $500 e un paio di Nike che voleva. È stato comunque il suo giorno fortunato. È stato il giorno, sì, ma un pochino si è riscattato anche lui, perché poi ci ha chiesto di portarlo a cena in tutti questi ristoranti dove non lo facevano mai entrare. Ed era bellissimo andare con lui a spasso per New York e vederlo che entrava tutto fiero in questi ristoranti pieni di gente tipo quelli descritti da American Psycho. Bene, cosa dici? Ci suoni qualcosa, Ray? Adesso, subito così? Sì, sì, adesso. È bello così. Allora, ci sono qualcosa. Posso suonarvi qualcosa adesso? Decisamente. Allora, un attimo che prende la chitarra. Vi ricordo che siamo in diretta su Blu Radio Veneto. Questo è Rock Wave. Abbiamo in studio con noi Ray Tarantino, che ci canterà adesso un brano di cui non so il titolo. Cioè, deve essere Into the End, giusto? O no? Sì, potrebbe anche essere. Va bene, allora una scaletta qui, ma pare che sia molto... Into the End, allora faccio Into the End. L'hai scritta tu? Sì. Sì, questa era solo per avere un'idea delle canzoni che... Faccio questa. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, Into the End. Che chiaramente poi sono tutte diverse quando vengono fatte chitarra e voce, no? Questo ci tengo a dire, nel senso che nell'album sono prodotte in maniera meravigliosa da Tony Bowers, ma poi ne parliamo anche dopo. Now that we're looking into fading rain, finally see the end of bliss and pain. Believe it's human, the will to grasp your hand before this burning water turns mountains into sand. Forward, right again on a brighter day. Why can't we go forward? Ride the waves of serenity, sweet sound that plays far beyond the end. late in the shade, sweet unspoken words, I'm looking for another sign. Father, were you ever mine? Memories rise, let them hail or strain, like flashes in the moonshine. Oh, Father, were you ever mine? Why can't we go forward right again on a brighter day? Why can't we go forward, ride the waves of serenity, sweet sound that plays far beyond the end. Now that you're gliding so high above this land, I finally see the point of it's a matter of eternity. Right again on a brighter day. Why can't we go forward? Ride the waves of serenity, sweet sound that plays far beyond the end. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, questa era Into the End, la versione acustica, ma un acustico abbastanza grintoso, direi. Ho sentito una bellissima chitarra. Sì, è una bellissima chitarra, una Martin. Fra l'altro, così lo diciamo, magari se c'è qualche appassionato di chitarre in ascolto, anche la settimana scorsa avevamo ospite qua Paul Hiraga di Dumb Pilot, e anche lui aveva una Martin, sembra che siano molto amate, d'altra parte insomma è una marca molto rinomata. Ho provato tante altre acustiche, però ogni volta che suono a Martin è come tornare a casa e sentire la pasta della mamma, presente quando la pasta asciutta. Allora è proprio vero che sei italiano. Sì, assolutamente. Notavo, guardando sul web, ho fatto un po' di ricerche sul tuo nome, e tutti parlano di te come di un musicista inglese. Sì, è molto strano. Infatti io addirittura prima di scoprire la verità ero pronto a fare l'intervista in inglese, che è sempre più impegnativa. We can carry on in English if you want. If you like to. Yeah, we can try that. Sounds better. No, il problema è che si perde molto tempo per tradurre. Un'altra cosa che ho notato... È molto buffa questa roba qua, nel senso che ogni tanto mi succede di andare a fare dei concerti e vedere, da una parte vado, ci sono Ray Tarantino, tra parentesi, Londra. Ray Tarantino, tra parentesi, Galles. Tanta gente si inventa. Ray Tarantino, tra parentesi, Boston. Ray Tarantino, tra parentesi, New York, Roots. Perché poi anche i generi di musica, ogni tanto blues, Roots, folk, New York. Questa è una cosa che ho verificato anche per altri musicisti, è abbastanza così. Ma un'altra cosa che ho notato è che tu sembri sfruttare molto bene il web come canale promozionale. Ci hai detto che hai lavorato nell'industria del software, quindi adesso non mi stupisco che tu abbia una certa... che alcuni musicisti sono negati per questo, devo dire, non sono in grado di percepire il potenziale di questi nuovi sistemi di promozione, diciamo, che sono anche tutto sommato molto abbordabili economicamente rispetto... Sì, economicamente sì. Io devo dire che ho avuto una... Diciamo che la mia carriera da musicista, tra virgolette, è partita grazie al web, quindi non posso rinnegare l'importanza, sarebbe sciocco. Nel senso che io, per qualche strana ragione, mi sono trovato primo nella classifica di MySpace in Inghilterra. L'unica ragione potrebbe essere che la gente piaceva la tua canzone. Per quella sarà la strana ragione, però. e c'ero io, cioè un giorno ho ricevuto una mail da MySpace, ero andato a fare un concerto, sono tornato e c'era scritto... Vabbè, vedere le classifiche, sono andato a vedere le classifiche, c'era Ray Tarantino, poi c'erano Gomez e Amy Winehouse. Però... buona compagnia. Sì, ottimo. Poi loro sono andati avanti per la loro strada, io sono rimasto lì, sono rimasto fermo a quella mail. Però no, nel senso che poi io ho fatto anche delle scelte diverse, nel senso che purtroppo non ho mai voluto avere a che fare con manager discografici, gente di quel tipo lì. Quindi sei indipendente al 100%? Sì, sì, sono indipendente al 100% e mi piace moltissimo questo perché mi consente di fare quello che voglio. E sostanzialmente è la scelta che ho fatto dopo quel famoso incidente di qui sopra. Quindi poi è chiaro che è sempre bello avere un team di persone, ho delle persone molto preziose che mi aiutano a fare le cose che faccio, no? Ovviamente c'è un promoter che mi trova le date, c'è un editore, un produttore che è un coproduttore, proprietario di uno studio, insomma ci sono una serie di persone che mi stanno aiutando, anche perché da solo sarebbe una follia. Però diciamo che tornando alle nuove tecnologie, perché poi uno apre sempre parentesi dentro parentesi, tornando alle nuove tecnologie, io ho iniziato grazie a quello, nel senso che poi grazie a quel posizionamento in classifica ho firmato un contratto con degli editori, Sony Music, eccetera. Quindi da lì, e poi sono andato in America perché beh, è arrivato tutto da quello, no? E anche in America gran parte delle cose funzionano attraverso questo media qua, nel senso che... A proposito di America, se uno ascolta la tua musica senza sapere niente di te, cioè riceve, che so, un CD o un... ascolta le canzoni, l'impressione, almeno dal mio punto di vista, potrebbe essere più che tu sia un artista americano. Sì, piuttosto che inglese. Sì. No, zero inglese. No, qualcosa di inglese c'è, cioè, ma più sull'americano, a livello di suoni, nel modo di cantare, sì. Magari anche le fonti di ispirazione a questo punto. Quello sicuramente. Sì, ma anche perché anche le fonti di ispirazione inglesi, tipo gli Stones, no? Clapton, John Mayall, Steve Winwood, sono tutto quel mondo lì, perché poi io sono legato a quell'epoca. Sono gli inglesi più americanizzati. Esatto, quindi alla fine è quella roba lì, perché a me gli inglesi, a parte i Beatles che sono supremi, e sarebbe bellissimo che ci fosse una... Non so se è carino da dire, però è bellissimo che ci fosse una chiesa dove andare con dentro i Beatles anche. Però... a parte loro, che sono gli unici inglesi veramente inglesi. Se fossero stati americani probabilmente l'avrebbero fatta. Esatto, ma forse la fanno, comunque. Speriamo il più tardi possibile, se una chiesa significa anche altre cose. Comunque, veramente la cosa delle parentesi è devastante, perché uno apre parentesi su parentesi. Comunque, no, cos'è che stavamo dicendo? Ah sì, gli americani. L'America. Sì, gli americani. Perché alla fine io sono sempre tornato a quella roba là, esatto, anche i Traffic alla fine c'hanno quel suono lì. Molto americano. Esatto, è americanissimo, cioè certo. Steve Winwood è americanissimo. E, non so perché, mi sono sempre trovato connesso in maniera profonda a quel tipo di musica là. Io ho iniziato a scrivere i primi due dischi che ho comprato, anzi i primi tre dischi, ne parlavo l'altra sera con il mio batterista, i primi tre dischi che ho comprato sono stati quello di Tracy Chapman, il primo. Poi Thriller di Michael Jackson, che comunque voglio dire fenomenale, e il meraviglioso disco di Francesco Salvi, questa macchina qua del... Ah, quella. Deve essere abbastanza giovane, immagino. Sì, ero molto giovane, quello è stato un errore di no? Di una traiettoria un po' diversa, però poi mi sono poi quando sto di là hai visto che era un po' meglio di Francesco Salvi. Sì, anche se testi di Francesco Salvi comunque hanno un loro senso, no? Però sì, poi intorno ai 12 anni ho scoperto Dylan, ho sentito Dylan e una canzone che si chiama Tangled Up in Blue, che è in un album che si chiama Blood on the Tracks. Ho sentito quella canzone e di colpo ho cominciato a vedere il mondo a colori, ma proprio di colpo, e sono andato a rubare una chitarra e ho cominciato a scrivere canzoni anche senza saperla suonare, però chi se ne frega, tanto è importante scrivere canzoni. Quindi ho cominciato a scrivere. Ti eri già trasferito? Sì, ero in Inghilterra, sì. E basta, ho iniziato a scrivere con quella musica lì, e quindi poi da lì a cascata tutto quello che è arrivato dopo Dylan, nel suo percorso, tutto quello che c'era di parallelo a Dylan, Danny Young, tutto il momento della West Coast, Crosby, Stills, Nash & Young, poi Mellencamp e chiaramente Hendrix. Poi giocò credo da un'altra parte, insomma c'è tutto un mondo lì che... Ma è sì, più facile in ogni caso in Inghilterra che non in Italia fare tutto questo discorso. Com'è? È più facile in Inghilterra in ogni caso a fare tutto questo discorso che non in Italia. Della musica? Esattamente. Sì, assolutamente. Devo dire che quasi ovunque è più facile che in Italia. Forse perfetto. Anche una volta ho incontrato Yusundur e a quanto pare anche in Senegal è molto più facile che in Italia. Che fa in Italia, perfetto. No, ma sul serio, non sì, so sì, ci credo, non ci è una credo. Battuta, perché... Ci credo. Perché la musica ha la musica come tutte le arti. Ma adesso tra l'altro mi sta capitando di andare a vedere delle mostre, sono andato a vedere molte mostre in giro, no? Ed è bellissimo vedere tutti questi italiani che fanno la coda per andare a vedere quadri, fotografie, cose che non ho mai visto prima. Quindi forse si sta un po'... C'è un risveglio, dici. Sì, esatto, forse tutta questa televisione piena di robe brutte forse ha cominciato a dar fastidio, però non so. Comunque sì, in Inghilterra è molto più facile. Ok, okay. Sì, sì. Direi di andare con un'altra canzone. Dal disco. Come vuoi tu, come preferisci. Sì, ma andiamo con una canzone del disco. D'accordo, mettiamo la... No? No, io, a me piacerebbe che tu suonassi sempre, però insomma... Ti ringrazio molto, però... Sì, no, io posso anche suonare sempre. Però, dai, andiamo con un'altra canzone. Dai, facciamo un'altra canzone del disco. La prima, che si intitola Riding Rhymes, va bene? Riding Rhymes, va bene. Sì, se no, no facciamo, sì, facciamo... Scusa se mi permetto di... Però perché mi piacerebbe fare l'altra che è stata individuata come secondo singolo. Ok, dire cos'è un singolo. I'll be back Sunday. Sì. Il nostro pro del regista, esatto, sta per metterla su e quindi ce l'ascoltiamo. Rock Wave. L'onda del rock. First will frighten you most all the time when falling into life. The friends that you knew and all that talking backwards all the time were shadows in your mind. It seems you're getting stuck. Getting stuck, stuck into the Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo ascoltato I'll Be Back Someday con Ray Tarantino qui in studio. Ci stava spiegando come si fa a conoscere personalmente Dylan. Bisogna avere un po' di faccia tosta. Sì, bisogna avere un po' di faccia tosta. Cosa devo raccontare questa cosa? No, forse è meglio di no, che poi abbiamo troppi imitatori. Non ho problemi. No, perché la cosa è partita dalle tue frequentazioni e robe. Però devo dire che l'incontro che mi ha emozionato di più è stato quello con Dylan, effettivamente, che si può anche comprendere alla fine. Beh, lui è enorme. Una leggenda vivente, insomma. Esatto, però per raccontare come è andata la cosa al volo. Una volta io ero molto più piccolino, tipo 20 anni, sono roba così, e lui suonava un concerto vicino a Bologna. Io allora ho chiamato un albergo due torri, mi sembra, insomma, quello più lussuoso di Bologna. E ho pensando, se chiedo di Dylan, chiaramente non me lo passano, ma ovviamente dico, ma chi sei? No, una volta devo dire, però, posso dire, una volta sono riuscito ad arrivare a lui nella stanza d'albergo. Proprio. Sì, perché ho chiamato quasi incazzato, quindi ho chiamato, passatemi Dylan, non era veloce. E questa qua ha preso un attimo dal panico, si vede che me l'ha passato e lui fa, hello, così, no? E faccio, Bob, e lui fa, who's that? Allora a quel punto io dicevo, adesso chi dico? Perché pensavo, se dico che sono io, questo mi dice cosa vuoi, no? E allora stavo pensando, posso far finta di essere Paul McCartney? Cosa posso fare a questo punto? Cioè, tanto vale, no? E invece ho detto, Ray, e lui mi ha risposto tipo, fuck off man, I'm sleeping. Dunque ha messo giù il telefono, quindi... Però è stato molto emozionante. Meglio non tradurre cosa ha detto. Ma la seconda volta invece ho chiamato e ho chiesto del bassista, perché ho pensato, il bassista è un po' sfigatello, non lo chiama nessuno, quindi me lo passa. C'è questa sicuro. Leggenda, secondo cui nelle band il bassista è quello che non rimorchia mai le ragazze. Esatto, insomma. No? Perché sì, poi ci sono tante barzellette sui bassisti. Sì. Insomma, io ho pensato, chiamo il bassista, che tra l'altro è un manico mostruoso. E niente, allora chiamo l'albergo, chiedo di questo Tony Garnier, si chiama, e me lo passano. E allora a quel punto dico, Tony, ciao, sono Ray Tarantino, ti ricordi? E lui dice, no. Io dico, ma dai, New York, ci siamo conosciuti, abbiamo mangiato insieme. Sono a Bologna, ho visto che c'è qua Dylan, so che tu suoni con lui e ti chiamavo perché magari ci possiamo bere una roba. A che lui mi risponde, guarda, sì, va bene, io finisco di mangiare con Dylan alle 11, ci vediamo alle 11 e mezza in albergo. Allora io vado in questo albergo e a un certo punto vedo entrare tutta la band, chiaramente io ero emozionatissimo. Passa Dylan con il suo cappuccio, cappello texano, entra Tony Garnier che cerca questo suo amico, no? Che ero io, che non conosceva. Che io mi alzo e urlo Tony, no? da italo-americano, e Tony mi guarda, Ray, e mi abbraccia come fossimo due vecchi amici, e poi mi dice, ah, ti trovo ingrassato, sei cambiato. Dico, ma sai il tempo, insomma. Mi invita al backstage il giorno dopo, dove incontro Dylan per la prima volta, e incontro Dylan per la prima volta, gli do la mano, dico, Ray, e lui fa, what? Dico, Ray, e lui, what? Io, Ray, ma tipo 8 volte di seguito. È un po' allora, sordo forse. Sì, ma poi non so. Allora, questa mano molto debole, molto piccola, mi ricordo questo. Che dice, Robert, e se ne va. 5 anni dopo sono al Fila Forum a Milano, c'è un suo concerto, 10.000 persone, io sono backstage, sono fuori dai cancelli, ma fuori, con due amici inglesi. A un certo punto lui esce, va verso il tour bus sotto la pioggia, camminando tutto un po' così, gobbo, stanco, e io urlo una roba tipo, thank you Bob, no? Proprio da fan, sfegatato. Lui si gira e mi fa cenno con la mano, mi saluta con la mano, e io lo saluto di nuovo. A quel punto lui esce dalla sua traiettoria verso il tour bus e comincia a camminare verso di me. Allora io vado dal buttafuori e dico, scusa, no, dato che sta venendo a me, non farlo venire qua dove c'è tutta la folla, vado io da lui. E il buttafuori, beh, così convinto che il buttafuori mi fa entrare, con i miei due amici inglesi a seguito, andiamo verso Dylan, ma tipo 5-6 anni dopo da quando l'avevo incontrato, e a 3-4 metri di distanza Dylan mi guarda e fa, hey Ray, e mi abbraccia. Incredibile. E io non ci potevo credere. E poi mi chiede, how was the show? No? E io dico, bello Bob, cosa devo dire? Cioè, voglio dire, no? Sei Dylan comunque. E lui dice, sì, the band rocks, una voce assurda. A quel punto gli dico, Bob, dovresti venire in Italia più spesso, no? E veniva a fare, insomma, e lui mi risponde ridendo, sì, ma non so dove andare, non so cosa fare, non c'è niente da fare qua. Allora gli dico, ma scusa, pigliati una roba in campagna e produci del vino. No, gli suggerisco, lui mi dice, sì, trovami tu una tenuta. Allora io gli do un biglietto da visita e poi gli dico, lui mi dice, ah, ma non dimenticarti di me, mi dice lui. Dico, no, però tu non dimenticarti di me. Allora a un certo punto gli dico, ah Bob, a proposito, io lavoro nel mondo della musica, come vedrai dal biglietto, tu suoni qualche strumento? Anche lui mi guarda un attimo stupito, poi ride e dice: the guitar, sometimes. Poi dico: ah, e scrivi canzoni? I miei due amici inglesi basiti, perché dicono: questo è scemo. Perché... Però ho pensato anche, cioè davanti a Dylan, cosa fai? Gli dici che è bravo? No? Cioè, lo saprà, no? Quindi l'unica roba che fai è che cazzeggiare un po', o no? In effetti, no? Probabilmente... Ah, cioè, perché se no cosa ci dici? Bob ha scritto delle canzoni bellissime, questo dice... Ah, sei la prima persona che me lo dice. È vero. Invece gli ho chiesto: ma tu suoni? Poi gli ho detto: scrivi canzoni. Lui mi ha risposto la cosa più bella che potesse rispondere: I've written a few, but I keep them to myself. Che è bellissimo. Ne ho scritte un po', ma me le tengo per me. Che è la domanda più elegante, no? Arrivata da Dylan. Allora, che gli dico: guarda Bob, se quando torni in America, con calma, comprati un registratorino, mettine 4 o 5 su una cassetta, una chitarra e voce, senza problemi, mandamele, che magari posso fare qualcosa, no? E allora lui, ridendo, dice: sì sì, te le mando sicuro, magari divento famoso un giorno, posso vendere musica via internet e la gente magari mi riconosce anche per strada. Dico: ma adesso fin lì non so, però vediamo cosa possiamo fare. E a quel punto gli ho detto: guarda Bob, devo andare, mi spiace, io starei qua un po' a chiacchierare, ma non, veramente devo andare, ti saluto, perché sarà completamente capovolta la cosa, è molto buffo, no? Sì, a quel punto in effetti era meglio chiudere, lasciare questo attimo esatto. Così congelato. Sono andato via. Uno dei miei due amici inglesi faceva l'importatore, esportatore di vino in Inghilterra. Esportatore durissima, perché non c'è vino in Inghilterra, però insomma importatore più che altro. Immagino. Esatto. Sei mesi dopo mi ha mandato un'email con un link e Dylan è entrato in società in una cosa ad Ancona e produceva vino. Credibile. E la persona ad Ancona con cui produceva vino era lo stesso concerto al quale avevo visto io. Assurdo, no, il mondo? Beh, sì. È una bellissima storia, anche perché di storie di incontri con Dylan se ne sentono gran poche, perché sì, notoriamente è, come dire, abbastanza... Inavvicinabile. Sei stato fortunato, molto fortunato. Sono stato fortunatissimo. Direi proprio sì. Sì, sì. Qualche donna è stata così fortunata, devo dire. Posso... Suoniamo. Suoniamo adesso, dai. Suoniamo? Sì, per forza. Non usiamo il plurale perché potremmo creare dei disagi agli ascoltatori. Lasciamo che a suonare sia solo chi è capace di farlo, ovvero sia il nostro Ray, che è qui, il nostro ospite in studio a Blu Radio Veneto. Adesso vorrei fare però... vorrei provare a fare una canzone che non c'è nel disco, se vi va. Per noi che sarà nel prossimo benissimo. Disco, che deve essere ancora inciso. Ma c'è già una data programmata fa. Per il nuovo disco? È solo... No, di che? Di quando lo registriamo? Sì. No. Ok. Quindi... Cioè, ad aprile ci incontriamo con la band per mettere giù una stesura della preproduzione, però poi insomma con calma faremo il disco. Bene, allora, il titolo c'è almeno della canzone? No. Perfetto, allora ci ascoltiamo un'anteprima assoluta, una canzone... Però... In incognito, diciamo. Sì, è una ballad molto lenta. Molto lunga, no scherzo, molto lenta, una balla di tre quarti, una cosa un po' così terzinata. Vabbè, insomma, io ve la faccio, poi dopo vedete voi. Benissimo, allora dal se vivo... Se volete mettere la pubblicità a metà, fate quello che volete, no, è molto lunga, non so, scegliete voi. Won't be long before I'll turn, waving goodbye, smoking what's left of a cigarette, wondering why. Seems that I've lost the ability to be what I want to be. But behind every kind of absurdity, there's a need to be free. This feeling of loss, not a ghost I'm afraid of, not a dream gone wrong. This feeling of love is just a promise to which I belong. I know that life's a blend of pain and bliss, but what if I'm lost in the mist, longing for the warmth of a mighty spark while looking around in the dark. But I wanna take a walk on a flowery field. Wanna learn how to love to be healed by the scent and the consent of a consequent blossom I feel. This feeling of love is not a ghost I'm afraid of, not a dream gone wrong. This feeling of love just a promise to which I belong. But if there's a thing I could change, I'll walk into the night and rearrange the universe and bring Venus into Mars. But if there's a thing that I could achieve, I'll walk into your past so you could see the shining of the stars, the flicker of a light. So now that you're in love and singing lullabies, can I look at the world with your eyes? For what I've left behind or overanalyzed, I most honestly apologize. The loneliness I feel is cutting like a blade through the flesh and through the bone. And it's not that I just call you when I realize that I can't always walk alone. This feeling of love is not a ghost I'm afraid of, not a dream gone wrong. This feeling of love's just a promise to which I belong. But if there's a thing could change, I'll walk into the night and rearrange the universe and bring Venus into Mars. But if there's a pain that I could achieve, I'll walk into your past so you could see the shining of a light, flicker of a star. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato questa canzone senza titolo, potrebbe intitolarsi Flicker of the Stars o qualcosa del genere. Infatti quello stavo pensando, proprio veramente mi sedevo. Suona Flicker of the Stars. Secondo me suona molto bene. Sì, è carino, vero? Consiglio, no, se... un'idea che mi è balzata in testa ascoltandola. Flicker. Stavo pensando, tu adesso stai facendo una serie di concerti qua in Italia, sì. E appunto viene annunciato pochi, come, pochi, troppo pochi. Come da Londra o da Boston, così. Sì, sì. E... Roots. Cosa fai sul palco? Dici grassi facendo finta di essere... Intanto mi spoglio. No. Abbiamo le telecamere, le webcam, le telecamere qua, quindi ti stanno vedendo. Pubblico no, femminile. Allora ritiro potrebbe... tutto quello che ho detto. Tra l'altro oggi è la festa della donna, o no? Sì, sì, sì, esatto. No, mi chiedo, quando cominci a parlare in italiano la gente resta un po'... Prima cosa che dico, subito. Ah, subito. Non sono di nessun'altra parte se non di qua. Però la tua musica è in inglese, hai sempre ascoltato musica inglese, hai mai scritto canzoni sì, con testo in italiano? Ho provato una volta, basta, non dico altro. devo dedurne che non ce la farei ascoltare. No, ma proprio non esiste, ma non c'è, no, non le faccio ascoltare neanche me stesso, figurati, le faccio ascoltare a te. No, no, no, no, nessuno, nessuno. Ho fatto tipo un verso e un ritornello e finita lì, perché viene subito una roba tipo... è una roba bruttissima. Uh-huh. Non so neanche gestire le vocali. Presente? Beh, hai ascoltato troppa musica io ascolto solo in musica inglese. Questa ballad che si suona molto bene con la Marti, molto bene. È stupenda. Però va benissimo. Johnny Cash. È Johnny Cash, perfetto. Però è ancora un pelo inglese, cosa dici? La ballad? Secondo me sì. Un pelo folk, un pochettino. Sì, sai cos'è? Sai qual è il segreto della. Sai qual è il dimmi il perché. Prendo la chitarra, perché ecco. L'inglesitudine è questa, aspetta, l'inglesitudine è questo, in questo, è questa roba qua. È questo passaggio qua che era in inglese. Ho capito. E allora io così mi è venuto in mente. Perché in effetti è molto inglese quel passaggio lì. A me piaceva molto, particolarmente. Perché parlavo con Alberto, che dobbiamo ricordare che è organizzatore di tutto il concerto. Alberto ha portato Ray qua dentro stasera. Sì, ci siamo trovati tramite Facebook, proprio parlando di quella roba, delle nuove tecnologie, no, delle nuove tecnologie. Cosa parlavamo? Di internet. Sì, esatto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono diventare nostri amici e amici di Blu Radio Veneto su Facebook, così. Anche amici miei. Beh, naturalmente, giusto. Per essere anche informati sugli avvenimenti, sugli ospiti che avremo prossimamente e sulle attività della nostra emittente. Parlando di è bellissimo qua, c'è un clima meraviglioso. Un po' caldo forse, no? Cosa dici? No, ma cosa? Parli di no, cosa? Caldo anche dal punto di vista, sì, di energia, si sta bene. No, si sta benissimo, guarda, molto bello qua. Sono contento che, sì, sì, bellissimo. Che tu sia a tuo agio, perché ci stiamo divertendo anche noi. Volevo chiederti, prima ci avevi accennato, della collaborazione che hai avuto la produzione di Tony Bowers sul tuo... Tony Bowers. Bowers, che è uno dei fondatori dei Simply Red, quindi parliamo, sì, di un musicista con un'esperienza... Sì, notevolissima. Lui è mostruoso, lui è pazzesco. Ecco, quanto ti ha aiutato James nel Brown, disco? James Brown, cioè uno di quelli ciclopici. Quanto ti ha aiutato nel disco? Tantissimo. Mi ha aiutato. Io ho conosciuto Tony tantissimi anni fa all'Isola d'Elba, grazie a un amico in comune, si chiama Alfredo, che mi aveva consigliato di andare a New York. Poi la prima volta quando sono andato, Alfredo mi ha detto: New York dovrebbe essere come la scuola dell'obbligo. Quindi baci. Io ero tornato all'Inghilterra, perché avevo vissuto in Inghilterra, non ho mai stato a New York, moltissimi anni fa. E sì, insomma, ho conosciuto Tony, poi sono tornato in America, poi ho inciso un demo. Qua ci serve una piccola parentesi, vabbè, comunque. Beh, puoi parlarne senza... No, è stato buffo, perché ho inciso questo demo, ho incontrato Dave Matthews in ascensore. Ha suonato a Padova due settimane fa. Lo so, ha fatto un concerto eccezionale. Sì, lui è fantastico. E hai scelto l'albergo giusto, però, perché non è che... L'ascensore per lo studio. Ah, ok. E, comunque, insomma, ho inciso questo demo. Poi l'ho dato a uno che fumava per strada, che lavorava alla Sony, no? E stavo in un alberghetto dove pagavo $20 a notte, che era una roba squalidissima, con la gente che moriva nelle stanze intorno, mangiata dai topi, insomma, una roba veramente violenta, molto trash. Però andavo a fare colazione in un posto che si chiama Florant, dove c'erano Richie Havens e Lou Reed che facevano colazione lì insieme a me. Ma perché New York è pazzesca. Una volta per strada chiedo a uno: scusa, dov'è che posso andare a suonare? Questo mi dice: guarda, in quel palazzo lì che dove abito io, ogni appartamento ha uno studio di registrazione in cantina. E questo era Lenny Kravitz. E non l'avevo capito io, perché poi era un po' piccolino, me lo immaginavo un po' più... Cioè, è strano New York, c'è un'energia strana. Comunque, a parte Susi Rotolo. Ma... cosa stavo dicendo? Ah sì, ho inciso questo... E questi, insomma, io ho lasciato il numero di telefono del mio alberghetto, questo alberghetto dove stavo da $20, e poi... 3 giorni dopo mi hanno chiamato questi della Sony, sono andato. Questo Eric qualcosa, non mi ricordo neanche, ma era tipo il 99. E questo mi dice: guarda, ti diamo dei soldi, se rimani... a New York e scrivi un po' di canzoni e poi facciamo un disco tipo Tracy Chapman. Io ho pensato: ah, però il primo disco strano che non abbia detto come il disco di Francesco Salvi, comunque no. Facciamo un disco come Tracy Chapman, insomma, che per un ragazzo di 20 e qualcosa anni è un sogno, no? Cioè la Sony che ti dice sta roba qua, dopo 3 giorni gli lascia un demo. E io ho detto sì. Poi mi è preso una paura fottuta, una paura mostruosa di non essere all'altezza, perché dicevo: ma c'è tanta bella musica in giro, perché devo mettere la mia? E allora non l'ho più chiamati, basta, sono tornato in Europa, basta, questi sono lì. Che cosa aspettano? Quindi da loro tu sei ricordato come l'unico folle che non li ha richiamati. L'unico folle a cui è stato offerto un contratto, capito? Che poi ha detto sì, arrivo, e poi non si è più fatto vedere. In mezzo ai 10.000 che ci saranno, esatto, che telefonano senza che loro si attendano alla telefonata, esatto, tu sei l'unico che si è distinto. Però è una mossa di tale understatement che Woody Allen avrebbe amata. Credo, no, credo di sì. A parte questo, però qualcuno più che di understatement la definirebbe proprio stupidità. Assolutamente under intelligence. Comunque, no, ma forse è anche stata la cosa giusta, perché poi non sai mai cosa c'è dietro una scelta, no? Perché adesso, a parte tutto, però il concetto di sliding doors è dietro l'angolo ogni volta, quindi magari tornavo al secondo appuntamento con loro e mi metteva sotto un autobus, che ne sai. No, no, è vero. O forse ti volevano far entrare in una boy band. Che sarebbe stato molto peggio, perché poi avrei preso i capelli e ci sarebbero rimasti malissimo. Comunque sono tornato da quel viaggio là e... Però mi vedo bene una boy band. Sono andato da quel viaggio là, soprattutto i passetti. E ho incontrato Tony che mi ha detto, oh, guarda, io voglio lavorare con te. E poi, anni dopo, l'ho chiamato e devo dire che oltre a lui c'erano anche dei musicisti eccezionali che hanno lavorato al disco, non solo lui, voglio dire. E l'apporto di Tony è stato, a parte l'apporto, voglio dire, musicale, indiscutibile, perché un musicista eccezionale, proprio umanamente una persona straordinaria, davvero. E quindi il supporto spirituale e morale di Tony è stato impagabile, si può dire, è stato impagabile. Certo, certo. Sicuramente, vedo ci sono anche musicisti italiani che sono sì, con te. Sì. Quindi il disco è stato registrato anche in Italia parzialmente? Assolutamente, o... sì, in uno studio privato di un batterista che si chiama Gio Dusio, uno studio bellissimo vicino a Gallarate, poi a Milano, New York, insomma è stato inciso un po' in giro. Vedo ce ne sono 6 studi diversi. Sì, è stato un po', sì. Però comunque, no, Tony è stato fondamentale, ma proprio... dal punto di vista della fiducia, credo che per tutte le persone che lavorano in un ambito minimamente creativo, avere di fianco qualcuno con più esperienza, no? Che ti sostiene anche solo con uno sguardo mentre fai qualcosa, mentre stai incidendo, no? Mentre stai cantando, incidendo una parte di chitarra, e guardi l'altra parte del vetro in sala regia, e c'è uno tipo Tony Bowers che ti guarda e vedi che annuisce con la testa, perché è come per dire, ok, vai avanti così. Ti dà una carica spirituale che ti consente poi magari di mettere qualcosa di positivo in quello che stai facendo, mentre invece magari proprio perché stai lavorando in un ambito creativo e quindi la creatività arriva dallo stesso bacino di disponibilità dal quale arrivano anche le ossessioni e i timori, perché poi alla fine arriva tutto dallo stesso punto. No, se uno opera in un ambito creativo e magari nello stesso attimo in cui stai creando qualcosa vieni colpito da una paura, no? E quella paura poi agisce da freno sullo slancio invece. Sì, beh, abbiamo dei casi, ad esempio ci sono dei musicisti che in studio non sono mai riusciti ad essere validi e coinvolgenti come sul palco, ad esempio. Evidentemente sì. C'è un tipo di blocco psicologico perché non trovo. Uno può anche capitare una volta che trovi il produttore scarso, per cui un disco suona male. Però se questo succede regolarmente, cioè che la carica, l'energia che uno è famoso ad avere sul palco non riesce a replicarla in studio, evidentemente. Ci sarà qualche ragione interiore sua, probabilmente. Questo mi viene da pensare. Sì, è molto strano l'ambito dello studio, soprattutto per un immagino. Cioè, fai conto che io negli ultimi 4 anni ho fatto quasi 500 concerti, quindi sono sempre in giro. Mi sono molto abituato al suono. Proprio c'è un suono nei venues, nei club, ma che sia un pub piccolino, che sia davanti a 6.000 persone in un festival a Buffalo piuttosto che 2.000 persone a Monopoli in piazza, cioè. Non importa che tipo di dimensione o venue, però c'è proprio un suono nella dimensione live. È un suono che diventa coinvolgente in una maniera molto specifica, che è quella roba lì. Che diventa proprio una droga, nel senso che tu non vedi l'ora di sentire la tua voce, la tua chitarra amplificata, anche in scala ridotta, però è una sensazione che rilascia adrenalina nel corpo ed endorfine, immagino, perché poi la gioia, no, il piacere di fare una roba di questo genere è irripetibile. E quindi... quando poi vai in studio è veramente dura, nel senso che rimettersi in mezzo a quelle quattro mura con l'ansia della perfezione del suono, l'ansia di questa roba qua, i fonici che fanno tutte le robe con i compressorini, no, tutta questa cosa di cogliere un attimo, quando invece poi tutto quello stesso percorso lì uccide l'attimo, no? Certo. È un po' un controsenso e capisco anche tutti quelli che poi vanno in studio e non riescono a far più niente perché dicono... faccio in studio. Sì, sì. Quindi meglio suonare sempre. Assolutamente sì, però è veramente dura in studio. Qui dentro assomiglia un po' a uno studio, però sei anche dal vivo, quindi non so se vuoi... Qua sono dal vivo. Ok, perfetto. Decisamente Sì, sì. 23:40. Vuoi rilasciarci un altro po' di adrenalina o mettiamo un altro... Dal vivissimo, 23:39, 15, il nostro 16, orologio 17. Digitale, vedi? Quindi sì, sì. Perfetto dal vivo. Un altro pezzo? Certamente. Ok, lasciamo allora che Ray, perché lui suona in piedi, quindi deve adesso un attimo prendere la chitarra. Si chiama Flicker of a Star. Vi ricordo che state ascoltando Blu Radio Veneto, questa è Rock Wave, siamo dal vivo in studio con Ray Tarantino, che è qui per presentarci il suo album che si intitola Recusant. Recusant cosa? No, devo ricordarmela questa parola perché l'ho imparata questa sera, insomma. Che poi Recusant, tra l'altro, è una canzone che era nel disco, ma che ho tolto perché uno mi ha detto: ah, ma c'è la batteria uguale a quella dei Coldplay, mi ricordo un pezzo di Coldplay, allora l'ho tolto subito dal disco. Cos'è, un reato avere la batteria che ricordo? No, perché in realtà quella batteria io l'avevo pensata, ho ascoltato un pezzo di Beatles. Il fatto che un giornalista dica: ah, sembra una roba di Coldplay, allora ho detto basta. Beh, io comunque l'idea che anche i Coldplay abbiano ascoltato i Beatles, per cui alla fine Coldplay non sarebbero i Coldplay se non ci fossero stati i Beatles prima. Esatto. Allora cosa ci suoni? Posso suonare Riding Rhymes. Puoi suonare quello che vuoi. Riding Rhymes, che è poi il brano che apre l'album. Sì, vuoi sentirlo dall'album? No, va benissimo, meglio dal vivo anche. An elephant running across my life with a gun. It's a funny kick I'm getting out of my mind, but I fear it feels like a crime. But I don't mind, see myself get high. I don't mind, see myself get high. I'm writing rhymes, waiting for morning light. I'm writing rhymes, waiting for an open smile. I'm writing rhymes to find there's no less what I've confessed. Sun is rising over paradox bay. I know that I missed the best part of the game. Time has never been a friend that I could trust. Guess that if it was, I wouldn't move on so fast. Looking back, I'm seeing myself get high. Looking back, I don't mind, see myself get high. I'm writing rhymes, waiting for morning light. I'm writing rhymes, waiting for an open smile. I'm writing rhymes to find there's no less what I've confessed. Looking out of a train as it goes through the night like a dream of lights and good fortune, I feel like a child. Thinking of those silicon smiles and funny lies, people getting stuck in their dreams of success. That's not what I confessed, but I won't mind as long as but I can look ahead and smile. I'm writing rhymes, waiting for morning light. I'm writing rhymes, waiting for an open smile. I'm writing rhymes, oh, and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride and I ride. Less than what I confess, no, no less. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccomi qua. Ok, Ray poteva essere un singolo potenziale, questo era strepitosa, come molto accattivante, molto sì. coinvolgente. Ma infatti, guarda, ti ringrazio, grazie mille. Basta dire altro, no. Questo è un infatti brano tutti che volevano questo. Allora, posso dire una cosa in realtà? Cosa? Questo è un brano che ha un che di rock inglese, anche sì. qualcosa sai di Oasis forse. Fammi sentire. Vuoi dire che cosa lascia dell'inglese? Qui insegni i trucchi del mestiere, non è... questo. Sì, perché prima, prima era... giusto? Sì. Qui invece è... tutti i passaggi dei Beatles. Ah, perfetto. Scusate se vi ho rovinato la magia. No, assolutamente. La differenza fra te e gli altri è che tu lo dici. Sì, sì, assolutamente, ma non ho nessuna paura di dirlo. No, nel senso che non c'è niente più bello che saper imparare, secondo me. Infatti stavo dicendo che la canzone ricordava un po' gli Oasis, che vuol dire che ricorda i Beatles, chiaramente. Infatti, ma a me piace molto questa cosa, per carità, cioè nel senso che... bene. Siete una grande famiglia, alla fine, dei musicisti. Ma sì, assolutamente. Papà Mozart. No, comunque sì, no, nel senso che siamo tutti lì, no? A proposito di questa chitarra, volevo raccontare un piccolo aneddoto. Dai, posso? Dai. Parlare un po' anch'io, no, scherzo, parlavo due ore. No, però, che quando sono andato a comprare questa chitarra qui, sono andato in un negozio dove c'era una persona che si chiama Ziki, che sta lì, che fa il commesso, che è tipo, non so, 55 negozio anni. Dove? New York, Londra? New York, Matt Umanov si chiama, Matt Umanov, su Bleecker Street, nel Village. L'ho visto. L'hai visto? Sì. Bellissimo, è stupendo. Tra l'altro c'ho qua la maglietta di questo negozio. Io mi sono fermato nei negozi vicini, quelli di dischi invece. Sì, infatti di fianco c'è un negozio di dischi pazzesco con tutti quei cofanetti in vetrina meravigliosi, no? Esatto. E di fronte c'è quello che vende la verdura e la frutta, vero? Con vabbè, tutte... adesso facciamo street maps. Sì. No, è stupendo. Google Maps di Bleecker Street. C'è tipo una vetrina quel negozio. Esatto. E avrei potuto lasciarci i miei risparmi di una vita, ma insomma. Sì, sì, sì. E sono entrato lì e c'era Ziki, che se sei entrato in negozio l'hai visto, perché è l'unico che sta lì seduto dalla parte delle chitarre acustiche, con capelli corti, grigi pochi. Si bracciati tipo Richie Evans, sta lì. La prima volta che sono andato a comprare una chitarra, lui prendeva nota, e già questo dimostra la differenza che c'è nell'approccio nei confronti della musica, no? In Italia piuttosto che in America, nel senso che lui, io ero un perfetto sconosciuto, in un negozio dove vanno Dylan, John Mayer, Clapton, Pete Townsend, questa gente qua va là a comprare chitarre, quindi, e io ero uno sconosciuto qualunque. Stavo lì e lui mi guardava mentre suonavo, mi seguiva e prendeva nota di come si muovevano le mie mani sulla chitarra. Poi dopo una settimana guarda le note e dice: guarda, secondo me la chitarra giusta per te è questa, tang. Ed era esattamente la chitarra giusta per me. Perfetto, spaventoso. Al che mi dice: guarda, io una settimana che ti sento suonare, mi piace molto come suoni, quello che fai. Se vuoi un chitarrista, vuoi che ti venga a fare compagnia, qualche concerto, qualche disco, eccetera, vengo gratis, non ci sono problemi. Io penso, da europeo più che da italiano, penso... allora, questo qua fa il commesso qua, questo qua che cioè, suonerà sarà pessimo, no? Cioè, veramente da idiota. Dico, questo qua sarà un personaggio pessimo. E allora, poi me lo dice di nuovo la seconda volta, dico... Poi la terza volta dico, senti Ziki, ma se suoni... perché dico, vabbè, vediamolo, testiamolo, no? Dico, ma se suoni, dimmi dove suoni e vengo a vederti. Mi dice, sì sì, io suono con Johnny Mitchell il 16 settembre a Central Park. Io ho detto, come scusa? Lui dice, sì, perché siamo amici, io suono con Johnny Mitchell, sono 20 anni che suono con lei, ogni tanto così facciamo qualche concerto insieme. Ho detto, ok. E poi mi dice, poi a ottobre suono anche con Patti Smith. E ho pensato, ah, vedi, quindi alla fine potrebbe anche suonare con me. A questo punto, se vuoi dire a Johnny Mitchell che può venire a vederti quando suoni con Ray Tarantino, va anche bene, nel senso che... questa è la meraviglia di New York, è un posto pazzesco, nel senso che, no... non è incredibile? È incredibile, sì, al 100%. Sì. Quindi, ma tutta l'America, devo dire. Una volta sono andato a Santa Fe, dopo che ero stato dal sacerdote voodoo a New Orleans, che mi aveva detto di andare a Santa Fe. Sono andato a Santa Fe, cosa? No, beh, siamo andati un po' tutti dai sacerdoti voodoo prima o poi, è una cosa abbastanza normale. È stata un'esperienza meravigliosa. Sono andato a Santa Fe perché lui mi ha detto, guarda, vai là perché troverai una donna che sarà la tua guida spirituale. Io vado a Santa Fe, trovo una che tipo legge la mano, legge una un po' psychic reader. E poi siamo così e finiamo a parlare di Dylan, per qualche strana ragione, perché io parlo sempre di Dylan. Comunque arriviamo a parlare di Dylan e lei le racconto un aneddoto e lei mi dice, ah sì, Bob è la tipica persona che fa quella roba lì. Dico, come Bob? A Santa Fe, no? In Mexico, in mezzo alle montagne. Dico, come Bob? E dice, ah sì, perché sai, vabbè, noi siamo in confidenza, se te lo posso dire, io sono stata fidanzata di Dylan per 4 anni, perché è stata la prima mano che ho letto, è stata quella di Dylan. E io dico, scusa, come? Come è successo? E dice, ah sì, perché io l'ho seduta per strada nel Village e sono passati Dylan, Allen Ginsberg e Emmylou Harris, che erano in tour insieme. Ginsberg si è girato, mi ha guardato negli occhi e ha detto vieni con noi. Io ho detto perché? Perché una ragazzina. Che si è girato anche Dylan e io li ho riconosciuti un po' impaurita, e Dylan mi ha detto sì, vieni con noi perché tu hai qualcosa da dare a noi, noi abbiamo qualcosa da dare a te. E lei ha detto è brutta sta roba, perché per dire, uno, Allen Ginsberg sappiamo com'è, Dylan sappiamo com'è, Emmylou Harris non lo sappiamo, però voglio dire, erano insieme in quegli anni, e lei avrà pensato male. Comunque è andata e Dylan ha detto leggimi la mano, e lei ha detto ma io non so leggere la mano, e al che Dylan ha risposto leggi e poi vediamo se la sai leggere o no, e a quanto pare era brava, quindi poi ha continuato a fare quella strada lì, ha continuato su quel percorso. È stata in tour con loro mentre facevano il tour di Rolling Thunder Review per Hurricane, per il pugile, no? Sì. Tutta quella storia là. E lei era in tour e faceva tipo la card reader di tutta la band, quindi anche T-Bone Burnett, Emmylou Harris, tutta questa gente qui che sono questi fenomeni che erano proprio scassi, tutti, proprio gente scassa. Esatto, ed erano tutti insieme e con lei, con Elissa Heyman, si chiama lei. E ha fatto molta impressione questa storia qua. Posso capirlo, anche perché mi sembra che Dylan... per dritto per rovescio ti stia come seguendo, dovresti essere tu che segui Dylan invece. Adesso lo denuncio per stalking, perché adesso si vede anche la storia di Susy Rotolo alla fine. Sì, che i nostri ascoltatori non sanno. Magari possiamo dirla dopo la prossima canzone, mettiamo su un altro brano. Un altro brano? Dal tuo disco, cosa dici? Sì, cosa... perché... sì, è giusto che sia tu anche a selezionare la scaletta, perché l'ospite da noi è... È sacro, appunto. Io direi che possiamo sentire. Ce n'è una piano voce, pianoforte voce. Che qui non potrai sicuramente fare per mancanza. Ma di... tu non sai che io ho portato anche il pianoforte. No. Però c'è una pianoforte voce che potremmo anche. Che vuol dire osare un po', perché è un po' certo. Strana. Però questa canzone qua, no, ci tengo a farla sentire solo perché una volta mi è stato chiesto di scrivere una canzone per un musicista che si chiama Delmer Brown, che ha suonato con Pastorius, con Sting, con Miles Davis, con gli Stones, un tastierista che ha un suo percorso autonomo nella scena jazz di Pastorius di New York. Lui ha fatto un disco pianoforte voce prodotto da Ponderosa, che è la tua etichetta, che è la mia etichetta, e mi ha chiesto di scrivere una canzone. E c'era una deadline chiaramente, perché lui doveva incidere questa canzone qua, no? E io continuavo a procrastinare e dire sì, no, poi la scrivo. Poi all'ultimo mi sono trovato che non avevo scritto niente. Come a scuola, insomma. Esatto, ma proprio l'ultimo giorno, che mi chiamano e dicono senti, ma sto pezzo qua, allora gli dico guarda, sì, trovami uno studio con pianoforte, te lo scrivo. Sono andato e in 20 minuti però mi è venuto fuori il pezzo, perché poi vengono fuori i pezzi così, no? E sono molto contento perché poi l'ha messa in un disco che è stato scelto come singolo questo pezzo qua del suo album, infatti è passato anche su Fox in America, eccetera. E gli altri pezzi sono tipo Sam Cooke, Bob Marley, James Taylor, Sting, questa roba qua, quindi poi... cioè per me è stata una cosa molto emozionante, no? Perché grandi autori sono stati capiti. Che numero? Esatto. 1, 2, 3, 4, 5 direi. Siamo se ancora so contare. All'elemento 2, 3, 4, 5, sì. No, perché non ci sono i numeri. Quindi. Track number 5, numero 5. Si intitola... tu me l'hai chiesto perché non volevi sentire 1, 2, 3, 4, 5, vero? E poi io ti ho fatto... Your Heart, My Heart si chiama. Sì, si intitola... walking, your hand, my hand, our hands will keep on building. Your eyes, my eyes, our eyes will keep on searching. Your faith, my faith, will keep us from misgiving. Won't let the shade in the sky give reason to the sun of light. Won't let no pain or anger be part of promises I made. Won't take the light for granted unless it's granted what I gave. No word will justify mine, and I forgive and give the good I conceive. I give the good my soul can't conceive. Your heart, my heart, our hearts will keep us warm. hand, my hand, our hands will keep on building. Your eyes, my eyes, our eyes will keep on searching. Your faith, my faith, will keep us from misgiving. Oh brother, why did you go? Why can I not find the key to your door? What is the meaning of fear? Why do suddenly those flames appear? This land is land of fighting, but once it was a land of peace and goodwill. I knew those sounds of love and conscience were true to me, but now the screaming is all I can hear. The screaming crowd is all that I hear. Your heart, my heart, our hearts will keep us walking. Your hand, my hand, our hands will keep on building. Your eyes, my eyes, our eyes will keep on searching. Your faith, my faith, will keep us from misgiving. Will keep us from misgiving. Find a reason for the heartbeats when they cease, for the rocking of the boat in which I rest my hope and peace. For every tear of cry, for every life that's put aside, for every drowning dream I share with a man that doesn't dare. Your heart, my heart, our hearts will keep us walking. Your hand, my hand, our hearts will keep on building. Your eyes, my eyes, your eyes will keep on searching. Your faith, my faith, will keep us from escaping. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Abbiamo ascoltato Your Heart, My Heart, sempre da Ray Tarantino, e adesso Ray si sta prendendo una piccola pausa. Come tutti i musicisti devono avere una piccola pausa. Giustamente, e facciamo una piccola parentesi prima di tornare a sentirlo suonare qui dal vivo, per ricordare Mark Linkous, che ha inciso diversi dischi sotto lo pseudonimo di Sparkle Horse, che era la sua band inizialmente, e questa è una brutta notizia che è arrivata nel mondo della musica un paio di giorni fa. Mark Linkous, che aveva storicamente sempre lottato contro la depressione, si è tolto la vita. Una cosa terribile questa, e non c'è molto da dire. Quando uno arriva a una decisione del genere, è chiaro che ci sono sotto delle cose sulle quali non è il caso di andare a indagare, e vogliamo soltanto ricordarlo con un estratto dall'ultimo disco che lui ha realizzato in collaborazione con Danger Mouse, questo Dark Night of the Soul. Era un album che poi ha avuto una storia assurda, perché la Sony, che doveva pubblicarlo, lo ha rigettato, e il disco praticamente si trova liberamente su internet, perché gli stessi autori hanno deciso di regalarlo, e vendevano la copertina, la confezione, sì, vuota, con un CD da masterizzare, certo, dentro, una cosa unica nella storia della musica. E vogliamo ricordare appunto Mark Linkous ascoltando questo brano che si intitola Star Eyes. Thank you. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, abbiamo ascoltato questo brano da Dark Knight of the Soul, abbiamo così fatto una piccola parentesi per ricordare questo musicista che non è più con noi. E invece abbiamo qui Ray, che stiamo facendo un po' tardi. Io sono ancora qua. Io. E ci resterai a lungo sicuramente. Un'altra mezz'oretta, Ray. Ma io anche tra notte. No, diciamo. Però volevo farvi complimenti perché si sta benissimo qua, c'è un clima meraviglioso veramente, c'è una vibrazione positiva stupenda, bello, molto bello. E possiamo chiederti di suonare ancora qualcosa per noi, visto sì. Che siamo così caldi, come si dice in gergo, poi ti sei rilassato adesso, quindi sei carico. E vedo qua fra le canzoni che avevi scritto nella scaletta Masquerade, che è un altro pezzo... Sì. Un pezzo nuovo? Vuoi sentire quello? No, perché vedo che non è nel disco, ero curioso appunto di sapere. Questa qua, allora, c'è una piccola storia su questa canzone, posso raccontarla? Beh, non devi chiedere permesso, fai pure. Perché una volta ho incontrato la ragazza che era la publicist di Ken Follett. E ho chiesto, ma come fa Ken Follett a scrivere tutti quei libri? No? Allora lei mi ha spiegato questo discorso della disciplina applicata al talento. Cioè mi ha detto, Ken Follett passa ogni giorno passa 4 ore a scrivere e 4 ore a leggere. Ovunque sia. Comunque, come esercizio. Cioè, lui lo mettete qua e lui si mette a scrivere una storia e parla delle cuffie che si innamorano del microfono, poi arriva l'acqua, si inventa delle storie ovunque sia e scrive. E poi legge tutto, legge, passa 4 ore, legge 4 ore a scrivere. Ogni giorno. Allora io ho pensato, adesso io scrivo una canzone ogni giorno. E infatti ho fatto così per tipo 3 mesi, ho scritto una canzone al giorno. Però non essendo bravo come Ken Follett, ne è rimasta una che mi è piaciuta, che è questa. Si chiama Masquerade, che ho scritto, mi ricordo ancora, in un motel a Salt Lake City, mentre stavo andando da Denver a fare un concerto a Portland, Oregon. No, sì. Portland, sì. Oregon. E ho scritto questa canzone qua. Tra l'altro, era buffo perché su Craigslist ero con una donna a fare quel viaggio. Avevo messo un annuncio su Craigslist, avevo scritto, perché io quando faccio i miei tour in America metto gli annunci per non andare in giro da solo, no? Perché magari posso dare il passaggio a qualcuno, mi raccontano delle storie, sempre interessante. Mi ha scritto una certa Anna da Montreal, mi ha scritto lei dicendo, guarda, io vengo a Los Angeles con te. Solo che poi è venuta un'altra ragazza. Allora poi sono tornato a New York e ho chiamato quest'anno e ho detto, ciao, ti ricordi di me? Sono Ray, ci siamo sentiti 6 mesi fa quando andavo a Los Angeles, adesso faccio un altro tour e vado invece di là. Se vuoi ci incontriamo a Buffalo, vicino alle cascate Niagara, ci incontriamo lì mercoledì prossimo e poi ti fai 15 giorni con me, tutte le tappe, tutto il tour e ti porto fino a Portland. L'è arrivata e ho scoperto che era la moglie, vedova, l'ex moglie, di un poeta fantastico canadese che è stato anche nominato, ha preso qualche nomination per il Nobel di letteratura. Ok. Ed era molto amica di Leonard Cohen. Questa cosa mi aveva molto colpito perché andavamo in giro in macchina e lei mi diceva, ah sì, Leonard mi ha parlato di questa canzone, senti. E faceva molta impressione avere una... Abbastanza, no? Sì. Insomma, questa canzone, la prima persona che l'ha sentita è stata lei. E quindi mi sono rimasto particolarmente affezionato al fatto che, no? Per un attimo mi sono trasferito. Eri quasi Leonard Cohen. Ero qua in un attimo... Però è strano il mondo, vero o no? Comunque questa canzone parla di un viaggio, tanto lo racconto. Parla di un viaggio che uno fa per trovare delle cose magnifiche e poi alla fine la sostanza è che in fondo si trova quello che uno cerca, lo trova solo tornando a casa, cioè tornando dentro se stesso, no? Alla fine, in giro per il mondo non c'è niente se non c'è niente dentro. We'll follow you, my love. If you tell me who you are, and I'll take you and I'll ride. If you show me where you hide, when a man begins to crawl, and a never ravens fall from a distant limpid sky in a masquerade of butterflies and lies. And the road she can't be a friend or the enemy at the end, 'cause there's nothing where I go if I live with things I know. Sure, I've seen beauty before, but I always wanted more, so I danced with my mistake in a masquerade of things I steal and break. I kneeled in times of inspiration, heard the voodoo priest and his promises of change. I prayed for rain, rain, rain across the desert with my memories silhouetted by the sun. A needle pierced my skin with rapture when I found faith was hidden deep beneath the waves. But I couldn't hold it, no, no, if not to give it. I cannot breathe if I cannot forgive. So I missed the staging post, so I came running to the coast. Now I'm weary and dispossessed, longing to be fed and blessed. Would you give me bread for truth? Share your never-ending youth. If I put my heart at stake, less a masquerade of endless give and take. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, questo brano era Masquerade, l'unica sopravvissuta di 90 canzoni. 90 canzoni. No, ce n'è un'altra sopravvissuta. Beh, insomma, allora, dai, un mese e mezzo per ogni canzone è già una media più valida. Ray, lo spettacolo che fai dal vivo è una parte acustico, una parte elettrico o solo elettrico? Allora, ho la fortuna di vedere musicisti pazzeschi che suonano con me, che si possono vedere anche su YouTube. Adesso c'è questa band, c'è Paolo Legramandi che suona il basso, che è un musicista straordinario, Nick Taccori suona la batteria ed è fenomenale, ma non lo dico per dirlo, lo dico perché sono così veramente loro. E Alessandro Pasini che suona la chitarra, che tra l'altro costruisce i suoi ampli meravigliosi, che sono quelli che uso anch'io, e ha un suono, io per quanto mi riguarda è il chitarrista più vicino a David Gilmour che abbia incontrato tra La tua carriera finora. Sì, nella mia carriera come chitarrista con cui ho la fortuna di suonare. Paolo Legramandi, nonostante sia italiano, ha un'attitudine assolutamente black e assolutamente americana. E Nick Taccori ha la sensibilità di un musicista bravo della scuola. Anche lui black, ma quella bella, però quella sofisticata, no? Quindi se posso vado in giro con loro. Chiaramente non tutte le situazioni lo consentono, perché chiaramente c'è una questione economica da una parte, di spazio dall'altra. Però se, ecco, diciamo che se sono con la band tendo a fare uno show che è interamente band, anche perché c'è proprio una vibrazione meravigliosa tra di noi. Suoniamo improvvisi anche molto bene. Ah sì, tantissimo, sì tanto. Sì, i pezzi, vuol dire, chiaramente c'è una stesura originale dei brani, però poi è molto jam band, come viene classificato in America. Assolutamente aperto, ma poi a seconda anche di come è il pubblico, nel senso che la scaletta poi cambia, magari mettiamo dei pezzi nuovi, facciamo quelli del disco, facciamo pezzi che ci siamo inventati insieme, piccoli stacchi da un pezzo all'altro. Insomma, cerchiamo di giocare il più possibile. Cover non ne fate mai? Sì. Cosa facciamo? Facciamo. Non ne facciamo moltissime, però facciamo All on the Watchtower. Bella. Facciamo Heard It Through the Grapevine. Change is gonna come. Alleggia sempre lui, eh. Alleggia sempre. Classici, sì, della musica nera. Alleggia sempre, sì, lui. Sì, sì, Dylan Dozzet. Sì, sì, sì, sì. E poi. Basta. Ah no, poi ogni tanto. Sì, c'è una cover che facciamo che mi piace moltissimo. Facciamo Rocky Raccoon dei Beatles. È una scelta sicuramente inusuale nell'ampio questo, repertorio dei Beatles. Infatti questo mi piace, di questa nostra cover, diciamo, scatenata, super rock. È un brano bello, anche un po' assurdo, un po' surreale, con, sì, la storia di questo procione. Sì, assolutamente. Però, insomma, non diverte tanto farla. Poi è bello anche il fatto che, cioè, cosa dobbiamo fare? Sempre i soliti pezzi sono dei Beatles, no? Questo qua è un pezzo che nessuno fa, facciamo noi. Sì, infatti. Giusto? Giusto, perfetto. But somewhere in the Black Mountain Hills of Dakota. Cioè, bellissimo quel pezzo lì. Allora. Ma puoi mica farlo qua, al momento, sì? Sì, potrei anche, però no. Perché? Cioè, quello, per imitare le voci poi è molto simile a loro, no? Quindi, non so, sì, se... Beh, se vuoi farla, noi fa piacere. No, come... no, meglio di no. No, perché mi spiace scomodare quei mostri sacri così per delle cose che poi non vengono così bene. Preferisco avere tutti i miei ragazzi che mi supportano. Volevo chiederti, la tua etichetta si intitola Ponderosa. Sì. E, di dov'è l'etichetta? Questa è di Milano. E il disco poi è distribuito anche all'estero? Il disco no. C'è qualche etichetta all'estero, mi ha chiesto di mandarglielo, però non l'ho mai mandato. Adesso glielo manderò, ma è tipo un anno che me l'hanno chiesto, quindi forse mi mando direttamente il prossimo, non lo so. Sono particolarmente calmo io da questo punto di vista qua, non ho nessuna ansia, nessuna brama, cioè sono qua, così faccio il mio viaggio spirituale per i fatti miei. Come la Sony praticamente. Esatto, guarda. No, ma io c'ho sempre quell'approccio lì, cioè nel senso che, non so, perché poi, non so, ha senso investire sulle aspettative, il futuro, tutte queste robe qua, non... Secondo me è anacronistico, secondo me non ha più senso. Nel senso che nel momento in cui si scopre che il futuro non è altro che la logica conseguenza del presente e nient'altro, poi bisogna viversi bene il presente e il futuro sarà quello che sarà. Perfetto, direi. No, nel senso che è così, sì, sì. Cioè è molto modestamente così, cioè il futuro come concetto secondo me è sempre stato overrated. Sopravvalutato. È sempre stato sopravvalutato quel concetto dall'essere umano, ed è la più grande colpa, secondo me, dell'essere umano, è stata quella di avvelenarsi il presente sopravvalutando il futuro. Perché uno spera sempre che sia meglio. Appunto, ma il futuro non può essere meglio, il futuro non esiste di base, cioè il futuro non esiste come non esiste il passato. L'unica cosa che esiste è una memoria cellulare di quello che è stato, è una conseguenza logica di quello che è, ma alla fine il resto non esiste. Ma noi siamo convinti, invece, per la nostra necessità di controllare tutto quello che ci circonda, siamo convinti che esista un tempo intorno a quello che viviamo. Invece non esiste un tempo intorno a quello che viviamo. O no? Sì, stiamo andando su discorsi un po', come dire... Però è così, non è così. Importanti. No, non è così, non è così. Luciano ha detto di sì, conferma che Luciano. No, nel senso che è così, nel senso, però se uno lo scopre poi può fare tutti i piani del mondo, ma i piani del mondo hanno una partenza nella serenità con la quale si vive il presente, sennò... Sì, sì, beh, questo è sicuramente inoppugnabile. Ecco. Basta. Io direi sono le mezzanotte e 17 minuti, possiamo mettere su un pezzo dal disco e poi quindi non è più la festa della donna, possiamo stare sereni adesso, non diamo più gli auguri a nessuno, adesso è a posto. Peraltro di donne qui in studio diciamo che ce n'è una carenza clamorosa, per non cui... ho visto un po' nell'armadio. Per la festa della donna li chiudiamo nell'armadio. Esatto. Erano lì sommerse da un mucchio di mimose l'anno scorso. Se ci scegli un brano, poi chiuderemo con un altro pezzo dal vivo che ci ha promesso, appunto, così potremo fare anche il confronto con... Cioè, la mia scelta sarebbe una scelta molto coraggiosa. Beh, va bene. Perché è un brano che dura tipo 8 minuti 17 secondi, va bene? Ci siamo comunque, non c'è problema. Sì, ci sta. Perché, no, ci tengo, perché questo pezzo... Allora, racconto un attimo al volo, che praticamente io avevo scritto... Quando ho deciso di fare questo disco avevo tipo una trentina di canzoni, poi ho fatto una scrematura iniziale, sono arrivato a 10 canzoni per fare il disco. Una volta selezionate e scelte le 10 canzoni insieme al produttore, siamo entrati in studio, è stato registrato molto velocemente il disco, cioè ogni canzone un giorno. Arrivavo chitarra e voce, lo arrangiavamo con la band, 3 take dal vivo, bam, grazie, arrivederci, buonanotte, prossimo pezzo. Però di tutte quelle canzoni che avevo preselezionato, alla fine ne sono sopravvissute... due. Le altre 8 le ho scritte tutte la sera prima per il giorno dopo, no? Perfetto. E... tra le due c'era quella da 8 minuti allora? No, no, quella lì non è quelle nuove. Ah, quelle nuove. Però la cosa che mi piace ancora più di questa è che nessuno aveva in testa niente di questa canzone, cioè non avevamo stabilito un arrangiamento, solo una stesura, cioè questi sugli accordi, questi sugli accordi, batterista suona così, bassista suona così. Abbiamo iniziato a suonarla ed era una specie di pre-produzione, chiaramente registrata bene. Poi, finito il pezzo dove dovevo cantare io, praticamente abbiamo iniziato tutti a fare una piccola jam. Molto delicata, devo dire, però tutto assolutamente improvvisato fino alla fine. Nessuno aveva il coraggio di dire basta, e quindi siamo andati avanti 8 minuti 17. E alla fine siete il batterista che butta le bacchette sul rullante e dice basta, così no. E uno che dice... oh, che vibrazione generale, una roba, e si sente tutto alla fine. E niente, mi piace molto questo pezzo perché è quanto di più vero ci possa essere in un disco. L'ho proprio fatto track, traccia numero 11, l'ultima, chiaramente, giustamente la... che chiude l'album. Esatto, questa è la canzone perfetta per questa fotografia che c'è dietro. Questo disco non è più in vendita perché è stato distribuito malissimo. Credo che ce ne fossero tipo 71 copie in tutta Italia. Però questa foto ci ho messo un minuto e mezzo a farla, perché questo qua è la Route 66, questo qua è un camion che va, vedi? Ah, è una foto, sì, con una esposizione lunga notturna. Un minuto e mezzo, questo qua è tipo un miglio quasi. Vedi? Ah, straordinario, adesso che me lo fai notare. Infatti sono molto affezionato a questa foto. Sì. E il titolo del brano è... Summer Space parla di reincarnazione. Ah. A proposito di tempo che non esiste. Esatto. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. L'onda del rock. Summer Space, qui stiamo scoprendo dei trucchi, in effetti se non me l'avessi detto tu Ray non ci sarei mai arrivato, c'è una frase nascosta all'interno della fascetta laterale del CD, sì, che può essere letta solo se sei messo in una posizione inusuale, After All the Party is Dead, è abbastanza complicata, dopo tutto è il sunto dell'album, è quello che dice la frase elettronica alla fine di questa canzone. Dopo tutto il significato point è che il limite del raggiungibile non è differente dal limite del concepibile, tenendo in mente che un uomo deve evolvere quando gli viene data la possibilità, non è che si lega molto bene. Non pensate che sia così, no? Sì. Ok, quindi prima si pontificava e poi alla fine insomma la cosa si alleggerisce. Esatto. Bene, abbiamo scoperto anche questo, definirlo segreto non ha molto senso visto che è stato l'autore a rivelarlo. Sì, no, esatto, non è proprio un segreto, però. Però è nascosto bene, ecco, quello sì. E siamo verso la fine di questo lungo appuntamento con Rock Wave, orario un po' inusuale, abbiamo anche cominciato in ritardo per sistemare le cose qua in studio, quindi lasceremo ancora a Ray il tempo per farci ascoltare un'altra canzone che ci permetterà anche di fare il confronto. Per chi è in ascolto dall'inizio della trasmissione, questo è il brano con cui abbiamo aperto il programma, però l'avevamo sentito nella versione del CD, quindi in studio con la band e tutto. Adesso lo riascolteremo in versione acustica, questo pezzo che appunto è quello intorno a cui gira tutta la tua vita, se vogliamo, in un certo senso. Sì, assolutamente. Perché il momento del grande passo. Peraltro tu hai fatto una cosa, adesso per tornare un po' indietro col discorso, per chi non era in ascolto all'inizio, Ray ha avuto un brutale incidente automobilistico da cui è uscito illeso, ma che lo ha fatto decidere a lasciare il suo pregevole lavoro e dedicarsi a quello che gli piaceva davvero, ovvero sia la musica. Ha deciso di mettere una fine a una parte della sua vita in maniera drastica e iniziare una nuova vita. Sto pensando che conosco tanta gente che ha detto, o anche per anni magari, che avrebbe fatto una cosa del genere. Quelli che l'hanno fatto davvero sono poi molto pochi. Secondo te, qual è la differenza fra chi ci prova e chi lo dice soltanto? Cos'è che ti fa agire? Secondo te, scusa, un altro termine. Se tu fossi arrivato da dove stai andando a Roma, sì, vivo e vegeto, avresti mai fatto... Esatto. Sarebbe successo lo stesso prima o poi, o ti mancava il grilletto? È strano perché è una combinazione di cose, nel senso che da una parte c'è la necessità di riuscire a leggere i segnali della vita, da una parte, perché la vita, il mondo, la realtà ci parla di continuo, ci indica il percorso, no? Da un lato. Dall'altro c'è un ambito che è invece quello della fede, non nei confronti di un Dio, ma nei confronti dell'esistenza. C'è una fede nei confronti del proprio ruolo, di se stessi, del mondo che ci ospita. Quindi del mondo inteso nel senso più ampio, quindi del mondo come realtà di tutti gli individui che coesistono. È una fede per un nostro ruolo e un nostro percorso. E queste due cose, questi due ambiti coesistono di continuo, perché sono sempre insieme loro, dentro di noi. E perché ci possa essere un cambio e un salto, perché è un salto importante, no? Nella vita di una persona, ci deve essere molta attenzione nei confronti dei segnali e nello stesso tempo molta fiducia nei confronti del mondo. Non so se riesco a spiegarmi, non so se mi spiego. Quindi uno deve essere in grado di capire qual è il percorso e soprattutto se i segnali ci dicono che sono d'accordo con quello che stiamo facendo di noi, della nostra vita, oppure se sono contrari. Quindi ci vuole molta attenzione e umiltà nei confronti di questo tipo di meccanismo. Dall'altra parte ci vuole un atto di fede, e però ogni atto di fede ha bisogno comunque di un sostegno, perché la fede non arriva così, dal nulla, no? Chiaro che un evento come quello che è successo a me è l'incontro massimo di questi due meccanismi, perché è un segnale molto chiaro. Quando ti schianti a 160 all'ora, evidentemente qualcuno sta cercando di dirti qualcosa. e dall'altra tipo parte frena. Esatto, sì, o comunque stai proprio andando dalla parte sbagliata e... ma comunque è una questione proprio di attrito con il mondo. Quando c'è attrito, ecco, quando c'è attrito con il mondo, i segnali sono contrari a quello che uno sta facendo, no? Mentre invece dall'altra parte è anche un segnale di fede, perché nel momento in cui succede una roba di quel genere tu esci illeso, completamente illeso. Sì, qualcuno potrebbe dire che se tu fossi stata una persona religiosa avresti detto che ti aveva salvato, non so, il santino di San Cristoforo oppure lo spirito del nonno. Ma ognuno poi è libero di chiamare quella cosa come vuole. Sì, perché per dire, c'è gente che muore perché gli casca il classico vaso da fiori, sì, in testa mentre cammina per strada, oppure scivola sulla buccia di banana. Sì. Tu hai avuto un evento che potenzialmente era letale, disastroso. Lo so, e ne sei uscito intatto, quindi in effetti sì, posso capire che è stato un messaggio di qualcuno, cioè, ti sei sentito chiamato in causa da me stesso, perché poi non sono, cioè, se non è eccessivamente egocentrico, poi pensa che tutto il mondo sia lì a guardarti e tutti i vari signori del cielo, no? Però invece no, semplicemente io comunicavo a me stesso che avevo bisogno di fare una roba diversa. Poi quando hai comunicato a, non so, sei una famiglia, qualcuno, che lasciavi un lavoro molto ben pagato per andare a fare musicista, ti hanno detto che eri uscito di testa per colpa dell'incidente. Sì, no, sì, ma nessuno capiva questa roba qua. Non avevo dubbi. Tranne, no, mia madre capiva, l'unica persona. Ma gli altri no. È già tanto. È tantissimo, sì. Gli altri no, perché continuavano a offrirmi lavori, perché io non avevo soldi, non avevo una lira. Mangiavo tipo manzottine e ceci. E 2,63 euro al giorno in una casa senza gas e senza elettricità. Bello. Hai avuto un calo di tenore di vita, diciamo, abbastanza drastico. Decisamente. Era come uno che vince la lotteria, ma al contrario. Sì, alla slotteria. Ho vinto la slotteria. Ma... bene. Poi parliamo di nuovo, no? No, adesso sogniamo. Adesso auguriamo la buonanotte ai nostri ascoltatori con questa ultima canzone. Li ringraziamo per averci seguiti, ma naturalmente ringraziamo in primis Ray Tarantino per essere stato con noi, per averci intrattenuto con la musica e anche con le parole, con gli aneddoti. Una cascata veramente di emozioni che ci ha regalato. E tu hai degli annunci da fare? Sì, devo ringraziare Michele Tosoni, regia, il mitico nostro regista, sempre. Alberto Prisco che ha organizzato il tutto e Roberto Baldi che ha sistemato le telecamere. Sì, mercoledì abbiamo David Tosh, un gruppo musicista emergente piemontese, bravissimo, Rock Way dal vivo, chiaramente alle ore 22 mercoledì prossimo, quindi fra due giorni. Bene, allora vi lasciamo con 5 o'clock in the morning dal vivo qui dal nostro studio, dalla voce di Ray Tarantino e da Stefano Dainese e Maurizio Calzavara. Buonanotte e grazie. Lost in a land of meager skies and slander, betting on the best of my anarchy. Walk by the water if you're a dreamer, then I call to share my sweet insanity. The king of the team is Jesus on a Dutch day. Swears he's lost the game, counting every grain of dust on the runner's cry. Watch him do it again. I could go now, 5 o'clock in the morning, down on my knees, 5 o'clock in the morning, shame on you, shame on me too, 5 o'clock in the morning, down on my knees, 5 o'clock in the morning, shame on you, shame on me too. Say the world's evolving around us, starts burning, but what I fear is winter breeze blown on the backbone. I'm waiting for a new clone. What I get is not what I've grown. How could I die before I hear and clear the lies they said to me? The president who gives his game controls again, and how he wants to do it again. Feel like we go now. 5 o'clock in the morning, down on my knees. 5 o'clock in the morning, shame on you, shame on me too. 5 o'clock in the morning.